Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Eccoci qui di nuovo insieme con un argomento estremamente importante: il mondo del legal all'interno dell'azienda e come il digitale impatta sulle tematiche legali. Sappiamo spesso noi uomini di business che all'interno dell'azienda ci sono ostacoli che non riusciamo a superare o che ci sembra di non riuscire a superare, e che quindi tutte le tematiche legate al legal siano non siano altro che degli ostacoli che non ci permettono di fare business. Oggi lo faremo non con uno ma con due ospiti. Prima però ascoltiamo la scheda dedicata. La rivoluzione digitale sta impattando su tutte le aree della vita aziendale e pone in discussione tematiche legali di rilevante interesse mai affrontate prima, dalla protezione del marchio a quella dei domini, dal riconoscimento della persona alla conclusione di contratti a distanza, dall'internazionalizzazione dei rapporti commerciali e distributivi alla sicurezza dei dati sensibili. La legislazione vigente è troppo spesso farraginosa e non aiuta la competitività delle aziende italiane. La sua interpretazione e la sua applicazione diventano quindi terreno di confronto e di scontro in azienda, limitando il raggio di azione delle attività con il rischio di comprometterne i risultati. Poter contare su controparti interne ed esterne preparate e supportive diventa una leva differenziante. Scopriamo come definire non solo i rapporti, ma soprattutto le aspettative e il corretto approccio di questa fattispecie. E siamo di nuovo insieme con Radio Next, Pepe Moder. Oggi parliamo di tematiche legali legate al mondo digitale. Lo facciamo con non uno, ma due straordinari ospiti. La prima è Elisabetta Mina, partner fondatrice di Mina Legal, che è uno studio legale. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno. Abbiamo come secondo ospite Stefano Desiderio, legale d'impresa nel mondo assicurativo e tecnologico. Benvenuto Stefano. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Chiedo a voi intanto un minuto di introduzione e presentazione per contestualizzare la vostra esperienza e il vostro lavoro nell'ambito e nel mondo digitale. Elisabetta. Io mi occupo, direi da sempre, di diritto industriale, diritto della proprietà intellettuale. Lo studio che ho fondato si occupa solo di queste materie, quindi sia di brevetti che di marchi che diritto d'autore e digital, che poi è diciamo la piattaforma di convergenza di tutti questi diritti. Con il passare del tempo il digital è diventato sempre più centro dell'attenzione dei nostri clienti e quindi anche nostro, anche e soprattutto di un altro settore centrale di cui lo studio e io in particolare mi occupo, che è la comunicazione commerciale e quindi tutto il marketing convenzionale e non convenzionale online. Molto bene, grazie Elisabetta. Stefano? Io sono nato nelle assicurazioni e nel mondo assicurativo, poiché ero il più giovane, ero la persona più indicata a accompagnare la nascita di tutto ciò che era innovazione digitale. Quindi stiamo parlando delle prime assicurazioni online, i contratti assicurativi sulla RC Auto, e stiamo parlando di che anni? Bravissimo, stiamo parlando proprio di queste cose, parliamo del 98, vado ancora più indietro, stiamo parlando della mail che entrava nell'azienda. Fantastico. Elisabetta, privacy, protezione del marchio e della reputazione che tu hai giustamente citato prima, contratti a distanza, protezione dei domini, internazionalizzazione. Sono tanti gli ambiti in cui il legal è impattato dai progetti digitali. Come sta vivendo questa funzione aziendale il cambiamento dal tuo punto di vista, visto dall'esterno, di uno studio legale? Direi non senza difficoltà. Perché? In realtà perché è uno scenario completamente nuovo in cui muoversi, quindi non comporta solo delle competenze legali specifiche, ma a mio parere una conoscenza del contesto digitale prima di tutto, quindi, e delle sue caratteristiche, che è un presupposto imprescindibile per poi trovare delle soluzioni legali e capire il contesto. Ma secondo te manca formazione a monte, cioè i professionisti del legal non sono preparati dall'università, dai corsi di formazione, oppure è proprio l'impostazione del nostro diritto che sta facendo veramente fatica ad accogliere questo tipo di fattispecie? Direi che è un concorso di elementi e senz'altro l'università e la formazione è ancora tradizionale e forse in parte è giusto che lo sia, perché comunque deve prima di tutto l'avvocato conoscere i fondamenti Il framework. Il framework. Poi il fatto di occuparsi del digital è lasciato un po' alla passione, alla propensione personale. Non ci sono dei percorsi strutturati, generalizzati. La legge in parte è fatta per un contesto offline, quindi per il mondo reale, che non significhi che non possa essere applicata al mondo virtuale, ma con un'interpretazione e un passaggio che non è scontato e non è contenuto nei testi e nei libri, quindi lascia, diciamo, più aperto questo percorso, e quindi trova anche i professionisti impreparati, con una precisazione che per mia esperienza il legale interno è digitalizzato in fondo quanto lo è l'azienda, quindi non è detto che a seconda del settore, a seconda della propensione del contesto lavorativo in cui si trova, poi sviluppi queste competenze, quindi direi con grandi differenze in realtà e con grandi difficoltà però comunque con una oggettiva difficoltà. Stefano, vista dall'interno, questo cambiamento, come lo sta vivendo la funzione legale? Ma io sono d'accordo con lei quando parla di una propensione strutturale. Innanzitutto io devo dire che c'è un grande coraggio nostro nell'aver affrontato per primi i temi digital, cercando di conciliare tecnica e tecnologia e logiche del web con le norme. Il panorama legislativo è in continua evoluzione, è diventato sempre più complesso, l'incremento delle normative sul digital è sicuramente aumentato, un'azienda ha bisogno di un legale interno. Come diceva Elisabetta, il legale cresce insieme all'azienda. Ho ritrovato un documento scritto, era un regolamento all'utilizzo della mail, e ti dico la verità, e l'avevo scritto io, sembrava quasi più una preoccupazione all'utilizzo della mail che non invece uno strumento che poteva ridurre e velocizzare il lavoro. Il problema però di fondo, che secondo me esiste e che secondo me poi uscirà nella discussione, è che non è che è il legale che non ha capito il cambiamento, perché il legale segue, ma spesso e volentieri sono le organizzazioni che non hanno capito che c'è questa nuova normativa digitale che deve essere presidiata meglio. Quindi non esistono, io onestamente non ne ho contezza, delle figure specifiche di legali digital all'interno dell'azienda, non esistono formazione dedicata su questo tema, e questo sicuramente è un punto di partenza per le aziende che vogliono sfruttare il legal. Elisabetta, quando, in quali occasioni o per quale motivo, meglio ancora, le aziende si rivolgono ad uno studio legale per le tematiche digitali? Da che cosa nasce questo bisogno? Senz'altro appunto nel trovare questa competenza che all'interno dell'azienda non è completa. Uh-huh. E poi perché, a mio parere, in un contesto normativo complesso, non chiaro o non chiara l'applicazione rispetto al contesto digitale, l'avvocato è chiamato a fare una valutazione che diventa valutazione del rischio. Quindi sì, diciamo, c'è un'applicazione della norma in uno spazio in qualche modo vuoto, perché la giurisprudenza, i commenti, la dottrina, tutto quello che ci ha accompagnato negli anni passati, diciamo, a rassicurazione e conforto dell'avvocato, in realtà per tanti motivi non c'è o è molto scarso. Quindi il legale esterno segue proprio questa funzione di dare un contesto dove il rischio solitamente c'è, è ineliminabile, perché io sono dell'idea che poi la legge non riuscirà mai più a essere congruente come tempistica alle problematiche che il continuo sviluppo anche tecnologico e nuove opportunità ci portano, e pertanto propone uno scenario con già una valutazione del rischio legale che poi deve essere assunto dall'imprenditore, cosa che una funzione interna legale, a mio parere, è meno chiamata a fare, perché non è così terzo rispetto poi all'organizzazione. Mi pare che spesso il legal sia estremamente conservativo nei confronti dei progetti digitali. Non rischiamo di perdere competitività nei confronti di realtà che vengono dall'estero e che si portano dietro regole che magari fanno parte di altri sistemi giuridici, che hanno, come dire, punti di riferimento totalmente diversi dal nostro e che non solo agli occhi, ma ahimè anche nella pratica rischiano di essere estremamente più snelle, più veloci, più scattanti o comunque più orientate al business e sembra meno orientate al rispetto delle regole tradizionali. Elisabetta? Ma a mio parere no, non, sotto questo profilo io non vedo una perdita di competitività. Sì, ci sono ordinamenti, poi non bisogna creare dei miti, perché poi diciamo l'Italia è abbastanza allineata con l'Europa, quindi in questo nostro paese per una volta non è così disallineato, ma gli Stati Uniti e altri diciamo paesi di common law hanno più regolamentazione ed è più chiara, però io credo che sulla rete le tematiche siano altre, non è la legge in questo caso a creare delle vere e proprie barriere. E Stefano, allora quando sviluppando un progetto in azienda ci sentiamo dire dal legale non si può fare, quando invece in realtà ci sembra, e uso il condizionale ovviamente, ci sembra che dei competitor lo stiano facendo, no? E quindi ci diciamo, ma come, quell'altro lo sta facendo, noi non lo possiamo fare, perché non è possibile farlo? Ecco, quali sono invece i nodi che in questo caso non riescono, vengono al pettine? Secondo me c'è un problema principale, la tempistica. Cioè ogni legale comunque deve individuare la domanda che gli è stata fatta in un contesto normativo ben delimitato. Dobbiamo avere tempo, sono novità, nessuna di noi le ha studiate all'università. Ti cito mio padre che mi ha sempre detto che i pareri si danno su 10 gambe, le 4 del tavolo, le 4 della sedia e le 2 proprie, quindi bisogna avere tempo. Questo tempo spesso e volentieri non ci viene dato, vuoi perché il legale non viene coinvolto all'inizio nel progetto e quindi alla fine si trova a dover decidere su un qualcosa che è già stata lavorata per mesi da altri. Allora però ti provoco, perché mi tocca provocarti, non ti chiamo perché ho paura che tu mi blocchi il progetto ancora prima che io parta. È vero, questo può succedere. E come faccio allora a risolvere l'impasse? Spesso cercando di bypassare qualsiasi ostacolo, cercando di arrivare quasi alla fine del progetto e di mettere tutti quanti di fronte al fatto compiuto e di dire: Elisabetta, a questo punto non ci si può più tirare indietro, l'abbiamo presentato all'amministratore delegato, come si fa a dire adesso che non si può più fare? Allora no, direi che è un errore, è una prospettiva sbagliata, bisogna trovare l'avvocato giusto da far sedere al tavolo all'inizio, perché se l'avvocato è quello giusto, capisce, comprende, segue il disegno, il progetto e non dice dei no, ma trova delle alternative, delle soluzioni. Quello che invece accade spesso è proprio che l'avvocato entra, diciamo, nella fase finale e quindi deve in qualche modo anche menomare il progetto, perché poi quando il progetto è fatto e bisogna togliere le parti che non sono conformi alla legge, il progetto si diluisce, si rovina, e questo poi l'avvocato è costretto a farlo. Invece l'avvocato dà una valutazione dall'inizio e quindi c'è una riduzione, non un'eliminazione, ma una riduzione progressiva del rischio. Stefano? Sono d'accordo con lei. E allora adesso vi propongo un gioco. Su 100 fattispecie di fronte alle quali come legali venite chiamati a livello digitale, quante secondo voi possono avere, dando il tempo necessario, che non può essere ovviamente l'età dei datteri, ma quante possono avere un responso positivo e quante invece un responso negativo? Vi do 3 secondi e lo dovete dire tutti e due insieme. 3, 2, 1, 90. Molto bene, quindi vogliamo essere conservativi, cari ascoltatori. Diciamo che Elisabetta ci sta dicendo che solo il 10% delle fattispecie possono non trovare una risposta positiva. Vuol dire che 9 progetti su 10 che portate al legale, se li portiamo in tempo e abbiamo dall'altra parte una controparte collaborativa e assertiva, ci aiuta a trovare una soluzione. Elisabetta? No, aggiungo un'altra cosa, che poi questo 10% che poi diventa uno nella traslazione dei numeri, di solito la ragione è legata ad altri fattori, quale quello reputazionale, per esempio. Quindi il rischio aziendale non può essere corso essenzialmente perché c'è qualcosa da perdere che va oltre il valore del progetto. Esatto, il valore del progetto o il danno risarcibile. Certo, Stefano. Sono totalmente d'accordo con lei, cioè in realtà quello che noi facciamo a noi piace, quindi noi non abbiamo quasi voglia di stroncare un progetto, non mi pare che sia mai successo. Dobbiamo vedere i rischi che ci sono. Il discorso è lungo, però per oggi ci fermiamo qui. Ma la prossima puntata riprenderemo il discorso sulle tematiche legal sempre in compagnia di Elisabetta Mina, partner e fondatrice di Mina Legal, e insieme a Stefano Desiderio, legale d'impresa nel mondo assicurativo e tecnologico, concluderemo il nostro discorso. Intanto grazie Elisabetta e Stefano per il vostro intervento e grazie anche a voi per averci ascoltato e seguiti fin qui. Vi ricordo che tutti gli argomenti trattati su Radio Next sono approfonditi sul sito della Business School delle Sole 24 Ore. Per qualsiasi provocazione, idea o consiglio, il nostro indirizzo di posta è sempre radionext@radio24.it. Un saluto da Pepe Modaro.